storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera a tutti voi che siete sintonizzati sulla nostra frequenza. Buonasera da parte di Gesi e di Antonio. Oh, caro Antonio, stasera abbiamo un ospite illustre, un ospite che non abbiamo mai avuto, ma che poi presenteremo, perché intanto tocca a te, se no poi mi sgridi se non ti lascio la parola. Naturalmente. Allora, buonasera e benvenuto alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet www.bluradioveneto.it. Per consigli, suggerimenti, proposte e quant'altro, il nostro numero di telefono è il 346 23 20 033. Esiste la possibilità di ascolto in streaming oppure di effettuare il download delle nostre trasmissioni, naturalmente. E un cordiale saluto al nostro regista. Ciao regista. Lei, il nostro regista, è oltre che regista, e bisogna che lo dica sempre, perché visto che siamo anche sotto Natale, è un angelo custode. Vabbè, prima di presentare l'ospite, che è il signor Lino Bianchin, presidente della Fondazione Feder Piazza. Beh, prima ci ascoltiamo appunto questa canzone, che poi è un coro in sostanza, e cantato in dialetto vicentino dal coro della SAT, ed è intitolato La canna del vecchio Garbaro. Andare in bordello, vendo la canna, e se invece di andare in bordello, vendo la canna e mi crompo il cappello. Canna, mi la depusi, ma se pusi, chi me la cusi, me la cusi, chi me la cusi, che da un patacon. Se invece di andare in prison, vendo la canna, se invece di andare in prison, vendo la canna e mi crompo il cannon. Porti canna, canna, canna, mi la depusi, ma se pusi, chi me la cusi, me la cusi, chi me la cusi, che da un patacon. Se capisci d'andare a Paion, porto la canna sulla montagna, se capisci d'andare a Paion, porto la canna alla sua Amazon. Porti canna, canna, canna, mi la depusi, ma se pusi, chi me la cusi, me la cusi, chi me la cusi, che da un patacon. Eccoci di nuovo in studio, e questa volta presentiamo il nostro ospite, che è, appunto come ho detto prima, il signor Lino Bianchin, presidente della Fondazione Feder Piazza. Buonasera signor Lino. Buonasera Lino. Buonasera e grazie per avermi invitato qui da voi questa sera. E diciamo che è nostro vanto averla con noi stasera. Allora, io so che lei ha tante cose da raccontarci stasera. Cominciamo subito intanto a parlare della vostra, questa fondazione. Che cos'è questa fondazione? Da quando esiste? La fondazione nasce per onorare la figura di Anna Maria Feder, e moglie di Francesco Piazza, il noto pittore incisore trevigiano. Lei era una donna di straordinarie vedute, di grande capacità affabulatrice e grande soprattutto nel saper gestire e creare e gestire amicizie tra i giovani. Ha fondato all'età di 14 anni, provenendo dall'Umbria, lo scautismo femminile a Treviso, qui a Treviso. Ed è stata una figura molto capace, molto interessata sempre all'opera educativa, e tanto da venir chiamata poi anche a livello nazionale come dirigente dell'allora Associazione Guide d'Italia, l'AGI. Ecco, Francesco Piazza, quando l'Anna Maria è morta, essendo legatissimo a lei in modo straordinario, ma poi tutti gli amici anche che si riunivano a casa loro, hanno desiderato ricordarla e hanno costituito questa fondazione. La fondazione ha si prefigge degli scopi che sono stati ricavati ripensando alle indicazioni e a come si muoveva nella sua storia Anna Maria Feder. Pertanto c'erano tre direttrici principali. Una era quella che riguardava l'educazione dei ragazzi, e abbiamo molto lavorato in questo senso in collaborazione con l'Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile e con l'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Scuola e dell'Università. La seconda era legata ad una sua grande passione, che erano i monasteri di clausura femminile. Pertanto ci siamo molto dedicati al sostegno di queste istituzioni. Ma scusi, vi siete o vi dedicate ancora a queste cose? Ci dedichiamo ancora, ah, sì. Ecco. Parlo al passato perché poi racconto la terza, era quella di sostegno ai poveri e alle persone in difficoltà, in particolare ragazzi che frequentavano la scuola, perché lei era anche insegnante, che non avevano i mezzi per poterla frequentare. Parlo al passato perché la fondazione, quando è mancato Francesco Piazza, è diventata Fondazione Feder Piazza. Grazie. E allora c'è stato un cambiamento nello statuto e sono stati aggiunti anche altri scopi, in particolare uno che riguarda la possibilità della fondazione di occuparsi anche dell'aspetto culturale, artistico del nostro territorio. Sì, perché lui era anche incisore, oltretutto. Lui era incisore di fama, direi, europea, perché abbiamo fatto più mostre all'estero quasi che in Italia. Incisore, pittore e poi scriveva anche queste poesie. Ecco, c'è una poesia che proprio è adattissima a delineare la sua personalità di incisore. Se ce la vuol leggere lei. Ma io non so se sono in grado di leggere, non sono un grande attore. La poesia si intitola Incidendo. E devo ricordare che questa è stata scritta in un particolare momento della vita di Piazza. Eravamo nel 1982 ed era stato diagnosticato un tumore alla moglie. Momento di grandissimo dolore. E lui, incidendo la lastra di zinco che è ricoperta di una cera che ha profumo di incenso, così scriveva. Ed è una poesia un po' sintesi del suo animo e della sua opera. Sarà l'odore di incenso che emana la lastra, sarà il profondo dolore che mi frequenta l'anima, ma io dico gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. E l'albero nasce, sambuco con le fronde nel sole e nell'ombra, come un altro, non io, l'ha con amore pensato. Molto bella, proprio ricca di contenuto, veramente. Bene, così, allora, mi diceva che questa vostra fondazione si occupa anche di arte. Sì. Ma avete anche un collegamento con San Pietro di Feletto, perché io ho conosciuto lei attraverso la LIA. Sì, beh, con San Pietro di Feletto abbiamo un legame da più di 20 anni, non so, che va indietro molto nel tempo. Quando che si è creato immediatamente, quando ci siamo conosciuti con la LIA e Flaminio De Martin, si è creato veramente un feeling notevole, perché ci siamo accorti che procedevamo praticamente sulle stesse lunghezze d'onda. Stessa direttrice, diciamo. Sulle stesse direttrici. Dobbiamo spiegare però chi è la LIA e chi è Flaminio, perché altrimenti sono due eccezionali persone che la vita ha portato ad inventarsi questo cenacolo di artisti e di poeti di incisori, pittori, scrittori su a San Pietro di Feletto, e pensate che per la loro casa sono passati tutti i più grandi Infatti. Italiani. Io là ho conosciuto Mario Luzi, sì. Là era di casa Fellini, là era di casa, è arrivato Alberto Sordi, Moravia, Zanzotto. La crema dell'intelligenza. La crema dell'intelligenza italiana, cinema, teatro, poesia, arte, è passata per quella casa. Straordinario. Loro li accoglievano e invitavano gli amici per una serata in compagnia con questi personaggi eccezionali. Oggi hanno inaugurato una mostra, ma adesso non mi ricordo come... Sì, domani devo andarci anch'io. Domani credo sia l'inaugurazione. Nel giorno 18? Ah, no, sì, il 18 giusto, sì. Oggi sì. Ma dovevo andarci anch'io, ma non sempre è possibile. Comunque, adesso noi ci fermiamo un momento e ci ascoltiamo una canzone. Una canzone che non è molto facile da... non che sia difficile, ma insomma non è delle canzonette così solite che si cantano. È una canzone di Jacques Brel. Jacques Brel sappiamo che è un bravissimo compositore, sia musicista che paroliere, e scrive delle canzoni che hanno un grande significato, proprio parla... Sì, per esempio della vita, parla di come, per esempio, in questo caso parla della vita di due coniugi, ecco, diciamo. Comunque ve la facciamo ascoltare, ed è intitolata La canzone dei vecchi amanti, cantata da Battiato, che la canta molto bene. Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia, mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via, ed ogni immobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. So tutto delle tue magie e tu della mia intimità. Sapevo delle tue bugie, tu delle mie tristi viltà. So che hai avuto degli amanti, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti. Ma c'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti. Amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Il tempo passa e ci scoraggia, tormenti sulla nostra via, ma dimmi c'è peggiore insidia che amarsi con monotonia. Adesso piangi molto dopo, io mi dispero con ritardo, non abbiamo più misteri. Si lascia meno fare al caso, scendiamo a patti con la terra, però è la stessa dolce guerra. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, l'aube claire jusqu'à la fin, toujours je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Mmh. Eccoci di nuovo in studio e diamo parola a signor Lino. Stavamo parlando della signora Lia e di Flavio, ma adesso hanno anche la figlia che collabora moltissimo con sì, loro. Sì, hanno la figlia che collabora con loro e il cognato, il genero. Sì, so che sono molto molto nonché, molto benvenuti. Nonché il cane che... Ah, sì, che presenza sempre molto viva sì, sono... e vivace. Ma altro che... Così, intanto li salutiamo, ecco. Ah, certamente, affettuosamente. E auguriamo anche buone feste. Benissimo, allora torniamo al nostro Francesco Piazza. Come pittore, come incisore, come poeta... Beh, Francesco viene da una famiglia... È veneziano, vero lui? Beh, lui nasce a Venezia, ma casualmente, perché la famiglia è originaria di Vigo di Cadore, ma poi il nonno è stato segretario comunale a Paese e lo zio, che era generale, è stato anche medaglia d'argento per nella Prima Guerra Mondiale, e abitava a Castagnole, aveva una villa a Castagnole che poi quando è morto ha lasciato al comune di Castagnole perché facesse una casa per anziani e tuttora c'è la casa per anziani generale Piazza. Beh, nella famiglia Piazza c'era il nonno che dipingeva, era un pisano il nonno e seguiva gli ultimi macchiaioli, per cui Francesco è sempre vissuto nel mito di questo nonno, conoscendolo nei primi anni di vita e imparando i primissimi rudimenti del disegno e della pittura proprio dal nonno. Ci sono delle tavolette dipinte da una parte dal nonno e dall'altra con i pastrocchi di questo bambino di 5-6 anni. Sono una sorta di staffetta artistica perfettamente. E lui perde il padre giovanissimo a 3 anni, pertanto devono rientrare da Venezia, dove il padre era funzionario delle assicurazioni generali. Rientrano da Venezia, hanno casa in via Montepiana, proprio di fronte alla casa di Giovanni Barbisan. E questa è una coincidenza che sarà foriera di grandi novità nel percorso formativo di Piazza. Giovanni Barbisan l'ho conosciuto anch'io e mi ha anche regalato un'acqua forte, che la tengo cara come una reliquia. Sono reliquie ormai quelle di Barbisan, è vero, sì. Ecco, lui giovanissimo appunto comincia a disegnare, dipingere, quando va a scuola lo conoscono e lo ricordano ancora i suoi vecchi compagni di scuola come una mente molto fervida, sia dal punto di vista letterario, perché amava scrivere poemi, che poi metteva in fumetto, quindi disegnava, faceva fumetti, organizzava teatri dei burattini, una grande creatività. E quando ha 15-16 anni, Barbisan, che abitava di fronte, lo vede ciondolare nel suo giardino e gli dice: ma senti, io avrei bisogno di qualcuno che mi facesse da modello perché devo fare una Santa Rita. E Piazza ricordava sempre ridendo questo fatto che se l'ha tirato in casa, lo ha vestito da suora e ha costruito e ha dipinto questo quadro di Santa Rita. Da là è nato questo grande sodalizio, una grande amicizia. Ha preso l'arte dell'incisione, perché lui già dipingeva e disegnava. Si è diplomato poi anche al liceo artistico a Venezia, che allora era a Venezia. Ha preso l'arte dell'incisione e le prime lastre appunto in zinco incise venivano stampate proprio con il torchio da Giovanni Barbisan. Non solo, ma si è preso molto cura di Francesco Giovanni, perché inviava, vedeva che questo ragazzo era un po' indolente, cioè voleva fare l'artista, sai come sono i giovani, 18 anni, un po' bohemian così. Ha cominciato ad inviare le sue incisioni, le sue acqueforti ai vari premi che c'erano e fra l'altro ha vinto il primo premio del Bianco e Nero a Cittadella, che era il più importante in Italia per quei tempi, e poi gli ha portato le incisioni anche alla Biennale di Venezia negli anni 50, cioè lo ha un po' lanciato. È morto nel 2007 a quanti anni? Francesco Piazza è del 31, quindi aveva 76 anni, però dovete sapere che nel 95 lui è stato colpito da un fortissimo ictus devastante, è rimasto immobile per tutta la parte destra e senza parola, muoveva appena la sinistra. Per 12 anni, quindi quasi stato vegetativo, diciamo. Lui si faceva capire benissimo, ancora, si vedeva la mente ancora sveglia e vivace, anche perché era una persona molto spiritosa, che aveva un grande senso dell'ironia e della facezia, un grande narratore, era molto simpatico da questo punto di vista, e lui queste qualità le esprimeva anche se non riusciva a parlare proprio, sì. Io ho letto qualche poesia qui del libro, come si intitola, Antonio, Alberi Anime. Sì. E, mi piacciono moltissimo, proprio veramente, e dopo la canzone chiederei ad Antonio se legge l'introduzione a questo libro, per cortesia. Va benissimo. Bene. Allora, la terza canzone in programma è... questa volta cambiamo un po' argomento. Lucio Dalla ci canterà Attenti al lupo. Choo-choo-choo, choo-choo-choo. Ooh, ooh. Eccoci di nuovo in studio. Adesso Antonio, se cortesemente ci leggi un pezzetto dell'introduzione al libro Alberi e Anime. Le parole affioravano dalle incisioni prima con l'apparente funzione di didascalia, cioè timide e marginali. Poi, nella trama dei segni, dei graffi amorevoli e insistenti sulla lastra, quelle parole hanno occupato uno spazio sempre meno marginale nel lavoro di Francesco Piazza, sempre meno occasionale e sempre più come risposta ad una necessità, cioè al bisogno dell'incisore di sovrapporre due linguaggi, perché quello che voleva dire era per lui e per noi, alla fine, importante. Anche l'incisione è una forma di scrittura, ma naturalmente la regina di tutte le scritture è la parola. Quelle intrusioni, quelle citazioni bibliche o poetiche segnalavano agli ammiratori di Francesco Piazza che l'incisione e la pittura stavano adottando una sorella, la poesia. La parola, insomma, aveva trovato il varco giusto, lo spazio ossigenato per esprimersi in piena autonomia. Presto o tardi il suo momento sarebbe venuto. Ora quel momento si chiama Alberi Anime e completa la tastiera espressiva di Piazza. Finché erano foglie dispersi, foglie cadute dall'albero della pittura e dell'incisione, queste poesie potevano apparire come effimere manifestazioni di un uomo inquieto, di una felice, creativa inquietudine, cioè come frantumi di un'attività costante, schegge di un'anima, appunti, illuminazioni, pensieri ritmici. Ora che l'artista li ha raccolti e riletti, lasciando su ogni foglio la data che documenta e testimonia uno stato nascente, un momento magico, come l'eterno incontro fra uomo e donna, come il sempre nuovo alternarsi e tornare delle stagioni, appaiono uniti e coerenti con un sentimento dominante, con una linea, cioè di pensiero e di comportamento. Perciò niente di effimero, ma nodi e trama di un progetto spirituale, di una carta dell'uomo che serve a ipotecare il futuro. Bene. Allora adesso leggiamo una poesia di Francesco Piazza, sempre tratta dal questo libro Alberi e Anime. E la poesia si intitola Autunno. Ritorna il dolce amaro, l'odore delle foglie secche, dei pioppi, grigie, a piede gli alberi. Ritorna l'infantile voglia di camminarci strisciando i piedi. Le sere hanno molli veli sui prati opalescenti, le foglie han rade e spoglie sono le viti. Questa stagione è dolce più che l'aprile. Autunno maturato, sognante, esperto di meriggi affogati nel sole, di frumento infuocato e di siepi frementi di cicale. Il girasole è bruno e ripiega il suo astro rugginoso. Pallido il mais ritrova nelle brume notturne la morbidezza per le foglie stanche. Finita è la speranza o la certezza del bello che verrà. Resta la calma gioia d'aver vissuto. È autunno. E vado avanti perché ce n'è un'altra un po' che sì, non è che ci assomigli, ma insomma segue un po' la. Allora, questa fiabe d'autunno, scherzo triste in sonetto. Nel cespuglio del rado salicone il pettirosso è ritornato ancora. Così è finita la bella stagione. La criptomeria, infatti, si colora ed il vigneto è immobile e scomposto, sgravato da silenzio ed abbandono. Ora si spera che sia dolce il mosto e si paria di farne vino buono. Nuove illusioni. Le castagne, il fuoco, la legna secca che dà buon odore. Mele cotogne e melograni. Un poco destro si cerca sulle zigne in fiore. Contro il senso del tempo un nuovo gioco. Sentirsi vivi quando ormai si muore. Ecco. significativa. Sì, ecco, queste due poesie, bravissima la signora Gesuina. Grazie. Ad averle scelte, perché sono, se la prima poesia che abbiamo letto, Incidendo, ci dona l'animo di piazza, qui c'è l'animo, ma ci sono anche i suoi colori e le sue immagini. Era un innamorato della natura. Comincia come molti pittori trevigiani con un paesaggismo aperto e luminoso, per arrivare nel prosieguo del tempo ad immortalare le parti più umili della natura, i cespugli che vengono considerati poco significativi dallo spettatore, che poi siamo noi, gli spettatori che poi siamo noi, e a dare loro grande dignità, perché diceva che ogni fronda, appunto, è l'opera di una mano magica, immensa, sapiente, e non va disprezzata, non va trasformata, ma va resa come qualcun altro l'ha creata, proprio per portare rispetto alla natura. E diventa un contemplativo. In un'incisione lui si scriverà: contemplata ali stradere, cioè ciò che ho contemplato lo voglio donare agli altri, lo voglio passare agli altri. Proprio questo senso di donare agli altri la visione della bellezza che c'è nel creato ha sostenuto sempre la sua arte e il suo agire in campo dell'arte. Comunque sono molto belle queste poesie, molto, sì, ne ho scelte altre due che poi più avanti leggeremo eventualmente. E tu, Antonio, puoi leggerne qualcuna dell'altro libro, per cortesia? Di Mendicavamo, Canti, sì, di Usignoli. Sì. Ecco, il libro, posso fare una breve introduzione? Certamente. Il libro è stato scritto praticamente nel periodo della malattia e poi della morte della moglie. Quindi infatti, sono, ecco, è tutta una serie di poesie molto intense, ma anche molto, molto tristi, molto meditate. Certe hanno il sapore di quei salmi in cui Davide se la prende anche un po' con nostro Signore. Sì. E qui abbiamo ad esempio Foglie come vecchi. Ah sì, che mi piaceva. Tu non sai quanto viaggino le foglie che si staccano morte ancora belle dai rami. Metti i platani di un viale del lungo Tevere. Come a sterili vecchi vengono voglie improvvise di viaggi, ed esse vanno. Così lasciano il sole e le ritrovi nella Roma più cupa e più tortuosa. Grandi muraglie lisce di mattoni che nella sera danno luce rosa. Presenze chiare di marmi striati, improvvise voragini, portoni che spalancano spazi smisurati. Paracarri giganti e nere pietre dissestate di vicoli dormienti. Le foglie vanno e, se la sorte è buona, arrivano coi loro sensi spenti a Piazza Navona. Oppure le ritrovi ai folli incroci, dove urgono macchine impazzite come femmine liberate, tese a guadagnare ogni diritto spazio. Esse, le foglie, sostano, mai sazio, il nuovo istinto di curiosità. I vecchi han voglia passeggere e brevi di vedere più in là. Ancora in viaggio, fuggono dai bordi del marciapiedi, ormai senza più tempo per memorie e ricordi. Bella anche questa, molto bella. Difatti me la volevo appunto, ma dopo non ho fatto in tempo, e quindi ho detto tanto c'è Antonio. Ce n'è un'altra, così ne leggiamo due per uno. Sì, solo. Riascolto Chopin come un tempo, sua dente malinconia, indecifrata poesia, anelito che si perde. Coglievo il suo sguardo verde che mi fissava, intenso, colmo di interrogativi, e ancora indago i motivi forse a lei noti e pesati. Colma misura strabocchevole, patto perdente con Dio, che ci addolcivano tanto. Lo so ora e penso che non ero più io a starle d'accanto. La vita, il prima, il durante, il poi, lei guardava. Magico cerchio d'affetti immensi, di spinte amorose a cercare, a trovare, che per tutti irradiava. Vi prego,

Francesco Piazza ha una intensa la sua intensa religiosità nasce un po' dall'educazione familiare, logicamente, ma poi anche dall'appartenenza allo scautismo trevigiano. Lui, assieme a Enzo De Mattè, Paolo De Mattè, Giorgio Pizzinato, sono quelli che hanno ricostruito lo scautismo trevigiano nel secondo dopoguerra. È stato un capo scout di grandi vedute, molto aperto ai giovani e soprattutto con una notevolissima inventiva per tutte le attività, per i giochi, e una grande capacità di aggregare a sé i ragazzi che arrivavano nel suo riparto. È stato un modello da imitare per tutti i capi che sono venuti dopo di lui. E attraverso lo scoutismo, e voi come sapete bene che lo scoutismo si impegna molto sulla ricerca e sulla spiritualità, ricerca molto la spiritualità che c'è nella natura, tanto che per il passato venivano un po' accusati gli scout di essere panteisti, e però invece erano ante litteram difensori e propugnatori delle bellezze e della grandezza del creato. E lui da questo comincia il suo percorso. Poi ci sono incontri anche particolari, molto importanti. Un incontro soprattutto. Avevamo a Santa Bona un assistente scout, che era l'assistente del mio riparto, che era Don Firmino Bianchin, che adesso è monaco certosino a Montebelluna, nell'eremo di Montebelluna. Ah, sì. Che ha introdotto un po' tutta la nostra piccola comunità alla lettura dei Salmi, alla lettura della Bibbia, e a vedere in questo rapporto che c'è fra uomo, natura e Dio, la natura come tramite per arrivare all'infinito. Ed è là che Piazza è cresciuto. Da quel momento nelle sue incisioni compaiono sempre più spesso Salmi che interpretano luoghi del suo giardino o del paesaggio che sono vicini a queste parole straordinarie di Dio, che Dio ha suggerito a Davide. Pratica. È vero, si sentono veramente delle... Allora, finiamo con... leggiamo qualche altra poesia e poi parleremo di quello che voi fate con la vostra associazione, con la vostra fondazione, certo. E quello che avete intenzione di fare anche nel futuro, un pochino, speriamo. Vero? Sì. Allora, io ci terrei a leggere questa poesia e anche l'altra, che lei l'ha nominata prima, che nominava il giardino, e qui c'è la poesia proprio che parla di un giardino, di una piazza vuota. Io la trovo molto molto significativa. Beh, intanto leggo Geraneo. Perché geraneo muori? Dove ho errato? Ti ho accostato alla luce, ti ho ritratto quando il sole d'inverno veniva abbacinante alla finestra. Nei giorni intiepiditi dalla pioggia ti ho messo al davanzale che l'acqua ti rorasse. Ora la foglia, verdeggiante ieri, lentamente si secca, e i due germogli dei quali ero orgoglioso, rattrappiti, intristiscono, mani piccoline, serrate a pugno. L'erba e fili bianchi nella terra che cinge la tua vita, affondata nel vaso. Io, impotente, che cosa ti darei perché tornasse il flusso esistenziale del tuo gracile corpo? Inutilmente al silenzio consegno la speranza, il linguaggio segreto delle piante, come il severo immobile messaggio delle cose mi sfugge. Eppure è triste sapersi sempre inerti, testimoni di fronte al grande svolgersi nel tempo di tutto ciò che ignoto e noto esiste. Come di fronte a te, geranio amato, perché di una presenza, misterioso frammento del creato. Ecco, io questa poesia la trovo mondiosa. Sì, è un po' in linea con quanto vi avevo raccontato prima dell'animo, dell'animo di Francesco, del suo rimanere. Lui passava le ore veramente in contemplazione, poi ci raccontava che aveva visto arrivare il primo pettirosso, come la cincia allegra si fermava a fargli le danze davanti, e avanti raccontava poi tutto ciò che gli succedeva davanti. Adesso leggo questa e poi lasciamo la parola ad Antonio, che ne legge anche lui altre, qualcun'altra dell'altro libro. Io sto sempre leggendo poesie del libro Alberi e Animi. Questa poesia è La grande mutazione. Gli strani rumori della nebbia d'autunno di notte. Fiata leggera, eppure spessa, trasporta ombre di un'altra natura. Scalpiccii, passettini, brividi di paura, zampettare di cani, fruscii ripetuti, sommessi tonfi del peso di un passero, fremiti, aliti, strappi cauti in un manto di seta. E la mattina il mistero si svela nel tiepido sole. Ieri era l'acero biondo, le acacie ancor gonfie e boscose, i gelsi ricchi di verde, bronze le masse dei platani. Come un drappeggio i ciliegi di rossi e di viola cangianti erano. I rami ora sono spogli, incidono l'aria stillanti dopo una notte di nebbia. Scomparsa l'erba vivace sotto un tappeto bruno. Il mio giardino è un raduno appena svuoto, un convegno disperso, una piazza affollata ora vuota. Rimangono come cartacce di un lungo, festoso congresso, foglie arricciate, mutate fin nell'essenza. Ricordi che un fresco vento confonde, incauto si porta via. Ma tutti noi siamo come foglie avvizziti. È Isaia che guida la mano in questo caso alla poesia di piazza. Ecco, nella prossima poesia che intende leggere il signor Ceccato, Antonio, vengono ricordate vecchie lettere. E perché queste vecchie lettere? Quando è mancata Anna Maria, abbiamo chiesto agli amici se avevano lettere sue, perché lei scriveva molto, ma scriveva lettere soprattutto. Non ha lasciato molte cose scritte, sì, qualche articolo per le riviste, ma soprattutto lettere. E allora arrivavano queste lettere dalle amiche e dagli amici che le avevano ricevute da lei. E una di queste è una signora che si chiama Lidia, che è stata la prima commissaria nel Veneto dopo la Seconda Guerra Mondiale e che ha chiuso la sua carriera di scout per tempo e poi è andata missionaria laica in Africa. Erano molto amiche e quindi tenevano una grande corrispondenza, e Piazza, appunto, ricevendo queste lettere, ricorda i tempi dei sogni, dei desideri, ed è anche di questa tensione che animava Anna Maria, questa tensione per espletare il suo impegno educativo. Vecchie lettere, mi sei tornata vicino da vecchie belle tue lettere che la cara Lidia mi ha fatto riavere. Erano tempi di speranza, la vita era tutta davanti, la tua grande anima scrutava per capire. Che gioia immensa quel tuo amore, ben diviso con tutto il mondo, e quel dolcissimo spingere a cercare. Poi gli anni del crudo pianto, del diluvio furente, della marea impetuosa, della morte. Noi travolti come indifese cose sparse, come rami, come alberi, da fangose acque divisi. Ma lo sai, le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. E anche qua il richiamo è biblico, sì, perché questo è un passo del Cantico dei Cantici. Quindi per come lui era entrato proprio, si nutriva di questa parola, non solo della grande poesia che è la Bibbia, che sono i Salmi, che è il Cantico dei Cantici, ma come la viveva dentro di lui e come la faceva vivere nelle sue opere. Una trasformazione, la sostanza proprio della, sì, la Bibbia vissuta praticamente, sì, la parola che diventava vita costantemente. Che e noi che eravamo giovani attorno a loro eravamo incantati da queste personalità e da questo grande amore. Ma immagino che fossero incantati, sì. Perché poi non erano barbosi, non era una religiosità di quelle tese, diciamo che era la religiosità della resurrezione, esattamente. Gioiosa, allegra, certo, vivace, certo, piena di racconti, come dovrebbe di bei racconti, essere, certo, come dovrebbe essere. Io ho conosciuto il professor De Mattè e sono stata anche a casa sua e mi sono veramente divertita e commossa nello stesso tempo, perché radunava tutti i suoi figli vicino al pianoforte e si cantava. Sì, amava fare il patriarca lui. Vabbè, allora ci ascoltiamo un'altra canzone, però comunque mi piaceva tantissimo. Sì. Allora ascoltiamo la quinta canzone, che è intitolata Campanile ed è cantata da Enrico Musiani. Addio piccole case inamidate, cotte dal sole dell'estate, io vado via. Addio, amici cari del quartino, vi lascio il mio bicchier di vino e partirò. Campanile, una volta nel mio cuore la tua voce terrò. Saluta tu la gente che rimane qui, di che vorrei parlare ma poi piangerei. Campanile, porta un bacio alla mamma, che stasera troppo sola sarà. Ma dille che non pianga per me. Campanile, forse un dì tornerò. Paese, piccolo mondo sconosciuto, adesso so che ti ho perduto per sempre ormai. Domani, quando sarò troppo lontano, vorrò le ali di un gabbiano per ritornare. Saluta tu la gente che rimane qui, di che vorrei parlare ma poi piangerei. campanile, porta un bacio alla mamma, che stasera troppo sola sarà. Ma dille che non pianga per me, campanile. Vorremmo chiedere a Lino quali sono le opzioni future della Fondazione. Beh, per parlare delle opzioni future dobbiamo andare a guardare anche un attimo al passato, a come si è evoluta tutta la storia della nostra Fondazione, perché è nata, come abbiamo detto, per onorare Anna Maria, ma Francesco Piazza, quando è venuto a mancare il 28 luglio del 2007, ci ha lasciato la grande sorpresa, ha lasciato agli amici di casa sua la grande sorpresa di aver dato tutte le sue opere e tutte le sue proprietà alla fondazione che era sul nome di Anna Maria. E allora noi ci siamo trovati, amici suoi, con questo onore, ma anche con questo onere, diciamo, perché poi è una fondazione riconosciuta dalla regione, quindi con un apparato burocratico spaventoso, sì. E quindi un po' come siamo trovati anche un po' impreparati. Certo. Questa fondazione poi, fra l'altro, era nata non da un lascito di Francesco Piazza, ma da un concorso di tutti gli amici di Anna, più di 150 persone che hanno messo a disposizione dei fondi per creare il fondo base di questa istituzione. E Francesco per questo ha creato tre incisioni che sono state distribuite fra queste persone, quindi nasce a furor di popolo, bellissimo, diciamo, quasi dal basso. Dal basso, sì. È proprio che abbiamo tante cose ancora da sapere, sì, e ci ritroveremo adesso, in seguito. Certo. Però prima di con finire, un'ultima poesia. Ecco. Siamo alla conclusione, bene. Sì, sì, allora sì. Per la fondazione faremo una puntata, sì, appositamente. Perfetto, anche perché è molto interessante. Volevo leggervi quest'ultima poesia, Passero Casalingo, che sintetizza un po' tutto il percorso di Piazza. Lui ha cercato in giro per il mondo, però la felicità, poi la serenità l'ha trovata nella sua casa, nel suo ambiente e praticamente dentro se stesso. Tu sei tante passero, quanto felice replichi il faticoso periplo della casa. Non sei come la rondine che sfida ignoti i tropici fra gli uccelli che migrano più di Ulisse. Di casalinghi fremiti, riscoperte domestiche, godi, ed anch'io alla colchide non ci credo. S'è rinnovato il carpino, verdeggia ancora l'acero, gonfio gemmato è il frassino, questa è vita. Guardo il sambuco, germina. Si è già spogliato il mandorlo dei suoi nevati petali, forse frutta. Sempre vedere piovere mi è piaciuto da giovane, nel sortilegio indulgere senza tempo. E godo, se fantastico nel meriggiare torpido, vaga nel sogno l'anima sul balcone. Così, or che mi è lecito le quiete gioie scegliermi, te scelgo, pigro ed ilare mio amico. Pigro e dire con una punta di ironia che nella vita di Piazza, esatto, nei discorsi di Piazza era sempre presente. Che bella. Come naturalmente questa speciale empatia per i suoi simili, che mi fa pensare che sia un artista anomalo rispetto all'egocentrismo, al narcisismo, certo, di molti altri. Certo, lui è un poeta semplice. Lui poeta, diceva: io voglio farmi capire. E voglio che il mio desiderio è che tutti siano liberi fruitori della mia arte. Voglio raccontare ma essere capito. Capito, giusto. Questa è una cosa, questa molto è una cosa bella, molto bella. Bene, allora noi la ringraziamo con tutto il cuore. Grazie, Lino, è stata una, e con una la speranza straordinaria di riaverla fra noi. Il più presto possibile, diciamo così. Volete, io sono a vostra disposizione più completa. Ecco, e le facciamo gli auguri intanto di buon Natale. Anticipatamente. E di buone feste, insomma, anticipati. Io ringrazio, faccio gli auguri a voi e a tutti gli ascoltatori. E venite a trovarci nella fondazione in via dei Biscari 22 a Treviso, a Santa Bona. Quando volete, potete passare. D'accordo. L'ingresso è libero. Benissimo. Ringrazio e buonanotte ancora allora, a tutti. Allora, anch'io do la buonanotte assieme a Antonio e al nostro Angelo Custode, regista. E vi dico, come sempre, ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.